se yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Che cos'è che ricerchiamo e desideriamo di più noi uomini del XXI secolo? Che perseguiamo minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. Un idealista risponderebbe l'amore o la felicità. Un cinico direbbe i soldi o il potere. Potere, potere, potere. Vi dirò cosa penso io dopo aver osservato per diversi anni il comportamento degli esseri umani. La pulsione più profonda, il desiderio umano più radicato, è quello di comunicare. Ma chissà perché gli esseri umani avranno tutta questa voglia di comunicare, o chissà perché comunicare poi significa in fondo essere comunicati, se uno comunica a se stesso, si accorge il mondo che egli esiste e ha la profonda, lecita e duratura gratificazione di poter dire io ci sono. Perché? Perché è un grande meccanismo avvolgente, tiepido e rassicurante che l'universo integrato di tutti i mezzi di comunicazione di massa certifica la sua esistenza. Beh, su questo mi sono consumato la laringe per lunghi anni parlandone alla radio. Ma ieri ho avuto una singolare esperienza che mi ha suggerito di fare la trasmissione di oggi. Poco prima di iniziare la puntata di Melog mi sono accorto che era saltato il mio profilo su Facebook. Voi direte: ma che baggianata, cosa c'entra con la radio? Beh, c'entra, fino a un certo punto non c'entra. È l'ultimo anello di un rapporto lungo, ininterrotto, di oltre 15 anni che ho col pubblico della radio, che seguo e che mi segue in un continuo sconfinamento da il mezzo di espressione principale attraverso cui noi ci relazioniamo, attraverso cui comunichiamo. Non a caso la radio probabilmente è il primo grande comunicatore che ha avuto una valenza sociale, il primo mezzo di comunicazione di massa che ha abbassato le saracinesche impenetrabili, ha permesso all'utente ultimo, al bersaglio, a colui a cui era indirizzata la comunicazione, di diventare a sua volta parte attiva della comunicazione. Quando la radio si è aperta con il telefono alla trasmissione, quando il pubblico della radio è diventato non soltanto passivo ascoltatore di ciò che diceva il conduttore o ciò che accadeva dal luogo in cui si produceva il programma radiofonico, beh, la radio ha cominciato a gettare le premesse per quello che oggi i grandi guru, i grandi esperti, coloro che hanno fatto la loro esistenza una chiave essenziale di spiegarci cosa sia il mondo del futuro che stiamo già vivendo, stanno acclamando come il mondo del web. Beh, invece la caduta di Facebook per me significava la caduta di un contatto epidermico con il pubblico della radio che ogni interrottamente, con il mutare appunto delle piccole modalità di interfaccia tra radio e rete, da una quindicina di anni. Ieri mi mancavano le 5.000 persone del mio profilo personale, le altrettante del mio profilo pubblico, di tutti i gruppi, insomma una decina di migliaia di persone che tutte le mattine so che ci sono, non sempre tutte partecipano, ma dai loro uffici, dai loro palmari, dalle loro abitazioni, molte sono massaie, molti sono normali impiegati, molti sono professionisti per nulla toccati dal sacro fuoco di essere rappresentanti della civiltà più avanzata dell'attimo che stiamo vivendo. Beh, mi mancava qualcosa. Sì, ho le telefonate, sì, ho gli sms se voglio, che non guardo mai, ma quel pubblico strano, singolare, inqualificabile, incertificabile, che poi mi segue durante la giornata, perché poi il contatto continua durante tutto il giorno. Io mi metto in discussione, mi metto a disposizione chi mi ascolta attraverso varie forme, lavorando davanti a una macchina per calcolare, per scrivere, per inviare, per comunicare, per scambiarsi impressioni tutta la giornata, continuo a seguirmi, a farmi seguire da questo codazzo di persone che mi danno idee, mi forniscono spunti, integrano quello che è il mio pensare per la trasmissione il giorno dopo. Beh, ieri questi mi mancavano. World Wide Web. Wide web, web, web, web. I think it's just internet significa proprio questo: connettere le persone tra di loro o alle informazioni. Per raccontarvela ho esplorato gli spazi infiniti di Internet. Dai suoi siti più affollati ai suoi angoli più remoti. Mi sono aggirato dietro le quinte della Silicon Valley osservando le strategie e le mosse dei leader di una nuova generazione di aziende come YouTube, MySpace e Facebook. Vi ispira più fiducia un dirigente seduto in un ufficio fumoso o persone come voi che sono in contatto con voi? La situazione è stata poi ripristinata, ho costruito un Gianluca Nicoletti backup per una situazione d'emergenza, avevo un mio alter ego attraverso cui sono riuscito sporadicamente a tenere il contatto, oggi sono nuovamente in contatto con le persone che mi seguono, che mi hanno seguito, che mi seguono da tanti anni. Beh, quello dell'integrazione fra radio e rete è stato un gioco che agli inizi, quando cominciai a frequentarlo una quindicina di anni fa, mi procurò la patente di spostato. Per la prima volta mi accorsi che il pubblico della radio, il trend normale, consueto, che tutti di cui tutti potevano disporre, il pubblico della radio, aveva una modalità di incontro che ancora non veniva conosciuta. Lavoravo in Rai al tempo, gli unici computer erano quelli che avevano le segretarie per battere le lettere a macchina dei dirigenti. Un modem uno solo doveva portare da casa, voleva cominciare a guardare cosa ci fosse al di là di quella linea impercettibile in cui le persone si scrivevano lettere di carta e si mandavano tutto al più dei fax. E mi accorso che il pubblico della radio aveva una sintonia particolare con questo maniera di comunicare ancora molto poco conosciuta. Cominciai a coltivarlo e siamo arrivati ad oggi, in cui è naturale, normale che una radio abbia un pubblico che la segue attraverso la rete. Ma vorrei fare un passo indietro e gettare, se possibile, delle premesse storiche, perché il rovello su cui voglio questa mattina convocare le persone che mi ascoltano e possono chiamare all'800 24 00 24 è la normalità, la serenità, la tranquillità, la quotidianità della frequentazione in rete. Esiste una porzione privilegiata di utenti della rete che sono quelli di cui nessuno si accorge, non sono i gagliardi, splendidi imperituri, nativi digitali, non sono i guru, non sono coloro che scrivono, bloggano, hanno grandi competenze multinazionali sull'uso della rete, sono quelli che ormai la usano come usano l'aspirapolvere, come usano la spazzola per darsi il lucio dalle scarpe, non si rendono conto che usare questo orpello quotidiano significa semplicemente vivere naturalmente il proprio tempo, non significa partecipare a un'avanguardia. Non esiste umanità divisa fra trogloditi che non sanno nemmeno da che parte si accede attraverso una macchina al mondo della comunicazione con altri esseri umani, o persone avanzatissime con le quali è difficilissimo parlare perché sembra che dall'alto le loro cognizioni tecnologiche non abbiano tempo da perdere con persone che non sono al loro livello. Gianpiero Lotito, buongiorno. Buongiorno. Gianpiero Lotito, l'abbiamo sentito più volte, autore di Emigranti Digitali per Bruno Mondadori, che parla dell'origine e il futuro della società dell'informazione, però dal 3000 avanti Cristo fino al 2025 dopo Cristo, quindi ha un occhio abbastanza vasto, è un esperto di motori di ricerca, ha insegnato editoria multimediale presso un master dell'Università degli Studi di Milano. L'ho questa mattina soltanto perché amico di passaggio per Roma, non nella veste di esperto, ma di colui che ha dei dati magari per integrare questa nostra teoria. Tu cosa ne dici di questo rapporto con la rete, con internet, che non trascende dagli usi comuni e quotidiani di tante persone? Ma c'è un termine abbastanza simpatico che è tecnofreaks, che identifica proprio coloro che usano la tecnologia sempre e comunque, anche quando è eccessivo o è inutile. I nativi digitali, quelli di cui si parla tanto oggi, che è la prossima generazione di utenti della rete delle tecnologie digitali, non sono tecnofreaks, la utilizzano in modo naturale, come se fosse un aspirapolvere o un elettrodomestico, per cui quella fascia di utenti di cui hai parlato tu sono quelli che forse usano meglio la tecnologia e in particolare internet, proprio perché la usano come un oggetto quotidiano che non entra in modo eccessivo nelle nostre vite, come per i telefonini, come per tutta la tecnologia. Senti, ma i veri test per l'innovazione, per il progresso nelle tecnologie per comunicare, dove nascono, dove allineano e dove si muovono? Sono questi utenti consueti che ne fanno un uso quotidiano, o sono coloro che teorizzano e passano il loro tempo a rappresentare ciò che già esiste? Questa è una bellissima domanda. Sicuramente quelli che poi fanno numero alla fine e fanno sì che un fenomeno di questo tipo diventi un fenomeno di massa sono quelli che hai citato tu, quelli che non si vedono, quelli che usano quotidianamente la rete, ma non solo la rete, tutte le tecnologie digitali, per la loro vita quotidiana. Poi c'è questa punta che emerge, questa piccola quantità di persone che contribuisce a rendere le punte più avanzate della tecnologia più evolute. Però sicuramente chi è più importante per la diffusione di una tecnologia digitale sono gli utenti di cui hai parlato tu. Senti Giampiero, rispetto alla radio, io parlo naturalmente senza equilibrio e onestà quando parlo di radio, essendo il medium che ho più frequentato. Ma tu trovi che ci sia realmente un'affinità di uso tra utenti radio, della radio e utenti abituali della rete? All'inizio io mi accorsi che quelli che ascoltavano la radio erano comunque tutti già dall'altra parte, e man mano che vado avanti mi accorgo che quelli che stanno dall'altra parte, i più intelligenti, i più vivaci, quelli che hanno meno puzza sotto il naso, sono quelli che comunque ascoltano la radio. Beh, la radio è stata sempre una tecnologia, è un mezzo di comunicazione che ha anticipato trend e fenomeni che poi sono arrivati anche con grande importanza su altri media. Marshall McLuhan, quando parlava di villaggio globale, non intendeva la TV come molti pensano, ma la radio, perché la radio, quando è arrivata nella nostra civiltà, è stato il primo momento in cui si poteva parlare da uno a tanti simultaneamente in luoghi diversi. È stato il primo fenomeno di comunicazione di massa. Negli anni 70 l'avvento delle radio private è stato il primo momento in cui per tanta gente è stato possibile esprimersi, ben prima dei blog, ben prima del desktop publishing degli anni 80. È stato il primo momento in cui a livello sociale c'era una fascia di utenti o comunque di ex utenti dei media che trovavano uno spazio per comunicare attraverso le radio che nascevano nei paesi, nelle città, magari in un trullo ad Alberobello, come mi è capitato di vedere, o nella mia città Potenza, che altrimenti non avrebbero avuto questa possibilità. Mi fa piacere che questa trasmissione cade casualmente da un incidente tecnologico di ieri, caschi proprio a ridosso del decennale di questa radio, che è una radio che è molto attenta comunque, Radio 24, a questa apertura. 800 24 00 24, fate sentire la vostra voce, non vergognati se dovete confessare una vostra arretratezza nell'uso di questi mezzi, non è un delitto, io stesso di fronte a un ferro da stiro non saprei da che parte cominciare, ma è un mio limite, un mio problema. Andrea Lavendel, buongiorno. Buongiorno, Gianluca. Allora, Andrea Lavendel invece è un esperto, è un giornalista studioso di radio, creatore del blog Radio Passioni, che è il luogo in rete dove passa tutta la riflessione attenta e più avanzata rispetto all'evolversi della radio. La radio, caro Andrea, come spesso ci siamo detti, è meravigliosamente morta, deceduta da un'infinità di anni. La radio è già cadavere, proprio per questo fatto la radio deve essere rappresentata con delle icone che appartengono al suo passato. Alla mia spalla un grande microfono, un Neumann, che rappresenta l'evoluzione più tecnologica dell'antico microfono della Eyer, che nel nostro immaginario rappresenta l'origine di tutte le radio. Proprio per questo è risorta, ha abbandonato il suo aspetto hardware, la sua corazza tecnologica, e è ovunque. Nessuno meglio di te ci può spiegare dove sia ovunque la radio e quanto la radio può segnare questa sua affinità di medium sociale. Ma sai, sì, più che cadavere parlerei in questo senso di fenice. La radio muore e rinasce ogni giorno, ogni volta che in realtà la spegniamo e la riaccendiamo, se ci pensi bene. Adesso è come dici tu, come osservi giustamente, è vero, la possiamo accendere in una miriade di occasioni e attraverso una miriade di dispositivi. È sempre la radio, forse non è completamente la radio con cui siamo cresciuti, però è dappertutto, e dappertutto ci sia un'altra tecnologia. È una strana forma di simbiosi, se vuoi, o forse di parassitismo. La radio è un organismo che approfitta. La trovi nel telefonino, la trovi ovviamente su internet, è stato il primo mezzo antico, tradizionale, a radicarsi su internet, fra l'altro con una forza e una vitalità addirittura sorprendente. Attaccandosi a internet, la radio è riuscita a rinascere. Io penso, mi ricordo, è brutto fare del reducismo, fa parte della nostra età, i primi esperimenti di streaming di una trasmissione radiofonica, probabilmente eravamo fra i primi a farli, quando per la prima volta il mio programma era anche in rete, sembrava impossibile. guardate, parlo di una 12 anni fa, qualcosa del genere, sembrava impossibile che una trasmissione radiofonica si sentisse attraverso il computer, sembrava un miracolo assoluto. Oggi è la più banale e normale delle modalità di ascolto. Beh, considera che tra le applicazioni di maggior successo di un telefonino come iPhone di Apple c'è proprio quella radiofonica. Negli Stati Uniti è stato un boom incredibile, ci sono di colpo milioni di persone che utilizzano il telefono per ascoltare la radio attraverso la rete, la radio che tra l'altro arriva da ovunque, insomma, e da tutti i punti del globo. Sei tu che mi dicevi che in alcuni mercati è impossibile vendere telefonini se non hanno annessa la funzione di ascolto della radio? Assolutamente, cioè, in India per esempio, dove negli anni recenti si è replicato il fenomeno delle radio private, con 30-40 anni di ritardo l'India ha scoperto le licenze per le piccole stazioni FM, non neanche tanto piccole perché ci sono ormai grossi network, si parla di tu accendi un emittente e hai immediatamente 20 milioni di ascoltatori, e lì il telefonino con ricevitore FM integrato è un must, non potresti venderne, perché la gente vuole parlare al telefono e ascoltare la radio contemporaneamente. E l'aspetto di network sociale, noi parliamo di rete, parliamo di diramazioni e connessioni, ma forse la radio nella sua struttura fisiologica per prima aveva proprio l'idea di essere un network sociale? Assolutamente, io riflettevo prima sulle parole di Giampiero, se ci pensi bene la radio è il mezzo che per prima ha scoperto l'interattività, perché la combinazione col telefono, la possibilità di arrivare direttamente in una redazione, la televisione l'ha scoperta in quanto tempo? In 30 anni, voglio dire, era tutto registrato, non c'era quasi nulla in diretta, l'idea di poter far arrivare una telefonata a un conduttore televisivo, poi figurati nel nostro clima democristiano, era assolutamente impossibile, c'erano mille filtri. Quando è esploso il fenomeno delle radio private, la prima cosa è stata questa dei microfoni aperti, della radio che acquistava una seconda direzione. Quindi forse per questo il pubblico della radio era già in qualche maniera abituato all'idea della connessione, all'idea della condivisione, all'idea dell'apertura e dell'uscita da schemi rigidi, per cui chi comunicava faceva il comunicatore, chi riceveva la comunicazione doveva ricevere la comunicazione. C'è una sorta di esercizio per cui sono stati i primi in fondo i radiomani folli ad occuparsi della rete, e in fondo oggi sono i primi a farlo senza dover per forza raccontare al mondo di quanto sono bravi. Io direi di sì, c'è una straordinaria affinità di linguaggio, se vuoi. Io guardo al fenomeno attuale del video su internet con molto scetticismo. È vero, è un grande boom, YouTube scarica non so più quanti milioni di filmati al giorno, però in un certo senso la internet continua ad essere un mezzo fatto di parola e di partecipazione. Questa è una cosa importante, perché anche da un punto di vista di linguaggi noi abbiamo molta più dimestichezza con il linguaggio radiofonico, con la parola nuda che viaggia nell'etere o sui cavi della rete, perché è il nostro linguaggio, mentre quello televisivo, ancora una volta, mi spiace fare sempre questo confronto, però è inevitabile. Va bene. Sai, è un mezzo talmente dominante che ha talmente rotto le scatole che uno alla fine lo cita. È nella sua fase di putrescenza, quindi spari anche contro lui, un cadavere. Sì, certo. Il bello è che lui probabilmente che la televisione probabilmente non rinascerà nello stesso modo, forse, chissà. Forse. Senti, Andrea, devo lasciare la linea alle informazioni della borsa, ci sentiamo tra un istante. Il punto sul tavolo è proprio questo: la partecipazione, la forza politica e sociale della radio e della rete messa a confronto. È un test interessante quello che sto facendo questa mattina. Dunque, stamattina davanti a me la popolazione degli ascoltatori connessi, che in questo momento stanno nei loro rispettivi legittimi posti di lavoro, di passatempo o di intrattenimento personale, seguono la radio e intervengono alla radio. Normalmente c'è un grande fervore, se avessi parlato di leggende metropolitane, di odore dei piedi, di delle più paradossali delle situazioni, avrei avuto il web ingolfato. Brutto il gesto che ha fatto Fabrizio Intonti con il pugno spinto verso il basso. No, non sono questi gli argomenti che solleticano, ma piace al pubblico connesso in rete di essere un indicatore concreto rispetto a fenomeni di costume, sensazioni, maniere d'essere. Questa mattina, che il tema è il web, pochissimi intervengono, perché nessuno da dire nulla, come se oggi volessi parlare della suola delle mie scarpe. Cosa potrei mai dire? Serve a isolare la pianta delicata dei miei piedi dal pavimento, dal pavé, dall'asfalto e via dicendo. Fine. Poi importante chi mette i piedi dentro quelle scarpe. Giampiero Lotito, autore di Migranti Digitali, Bruno Mondadori, editore. Vogliamo fare un punto anche sulle leadership acquistate e conquistate attraverso la conoscenza dei mezzi di comunicazione di massa, sempre parlando di radio e rete. Beh, è uno dei sogni di chi è in rete, di chi comincia a parlare agli altri, quello di diventare un influencer, cioè in qualche modo quello di riuscire a trasmettere le proprie scelte, i propri gusti a una massa sempre crescente di persone. Era successo al tempo delle radio, succede al tempo dei blog e succederà probabilmente in altri punti della rete in futuro. Ma il mio punto più ambito di arrivo è quello di essere il tavernello dell'intelletto. L'ho sempre detto, l'ho scritto e qui lo ribadisco. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Andrea, noto ospite di radio di Melog 2.0, professore di filosofia informatica giuridica all'Università Milano Bicocca. Un punto, Andrea, visto che nella tua università tu in particolare hai analizzato molto quello che è l'aspetto sociale, soprattutto l'influenza che può avere il web nel mondo della politica. Hai seguito la nostra chiacchierata informale fino adesso. Sei un ascoltatore attento di radio, sei qualcuno che almeno degli aspetti giuridici del web ne ha qualcosa da dire. Cosa hai da aggiungere? Ma l'analisi che abbiamo fatto noi per quello che riguarda la rete e l'uso che i politici italiani fanno della rete mostra che in realtà in Italia i politici fanno ancora un uso abbastanza distratto della rete, e nel complesso anche gli utenti, che nella maggior parte dei casi si limitano a ripetere slogan un po' triti e ritriti. La vera partecipazione del web c'è in contesti molto ristretti, non in contesti allargati. L'uso del web ha modificato profondamente il mestiere che faccio io, cioè quello dello studioso, perché ha permesso di mettere in contatto in maniera istantanea persone che studiano le tue cose dall'altra parte del mondo. In generale la partecipazione invece delle persone così che ogni tanto intervengono su argomenti generici, generali, molto spesso non è molto significativa. In questo caso i tuoi ascoltatori fanno un po' eccezione, insomma, perché io sono uno di questi, non potrei dire differentemente probabilmente, però difficilmente si riesce a creare una comunità che abbia cose davvero interessanti da dire, a meno che dietro non ci sia un grosso lavoro di organizzazione, questo sì. Però di per sé l'organizzazione spontanea in rete è, a differenza di quello che si crede, un fenomeno piuttosto raro e spesso non significativo, devo dire. E come, si è sentito parlare qua di blogger che trascinano l'opinione pubblica, di movimenti che in Italia sembra possano pregiudicare la compattezza del vecchio sistema che passa attraverso il popolo della rete, ma poi andando ai numeri, andando in sostanza, in realtà cosa accade? Ma andando in sostanza i numeri sono davvero piccoli, quelli che dicono queste cose sono persone che molto spesso sono coinvolte in questi processi comunicativi e quindi sembra loro in qualche modo di essere al centro dell'attenzione, al centro del mondo. Noi abbiamo analizzato questi fenomeni invece dal punto di vista degli altri media, cioè vedendo in che modo quello che viene scritto in rete si ripercuote sugli altri media, e devo dire che tutto sommato la frequenza è piuttosto scarsa. Avviene invece molto frequentemente il contrario, cioè le notizie che vengono messe in rete dalle radio, dai giornali, dai media tradizionali vengono riprese dalla rete, commentate, ampliate, discusse, ma raramente però c'è un contributo ad esempio di news da parte degli utenti della rete di blog, di forum o di... Quindi in realtà sono tutti commentatori di grandi eventi, sì, multinazionali, globali, ma in realtà pochi vanno a cercare la notizia nel loro palazzo, nel loro condominio. La ricerca che abbiamo svolto noi aveva proprio come compito, quella di, come scopo, come fine, quello di vedere in che maniera i blogger si inseriscono nella politica locale. Abbiamo studiato le elezioni provinciali di Milano, delle ultime elezioni provinciali di Milano, aspettandoci, secondo alcune teorie, appunto, che ci fosse in qualche modo al di sotto della superficie dei blogger più famosi una serie di interventi interessanti, di notizie, di persone che andavano a caccia delle notizie in qualche maniera in giro per Milano per mettere in difficoltà in politico il politico, per introdurre nuovi discorsi nel nuovi temi nel dibattito. In realtà in me non è così, cioè, tolta la crosta delle 10, 15, 20, 100 blog star italiane, al di sotto c'è davvero poco. Ci sono gruppi di blog, per così dire, ma però sono amici che si leggono in qualche modo l'un l'altro, commentano l'un l'altro i propri post, e raramente quello che viene detto arriva all'attenzione dei media tradizionali e ha una reale influenza. Ma dico raramente per essere gentile, in realtà noi non abbiamo mai trovato nessun caso di una notizia o di un commento durante queste ultime elezioni, di una notizia o di un commento fatto da un blogger che sia arrivato sulla stampa locale, non già sulla stampa nazionale, ma semplicemente sulla stampa locale di Milano e dintorni. Ecco, devo dire che anche il presidente degli Stati Uniti, Obama, che era stato tanto proclamato come il primo presidente eletto grazie alla rete, ultimamente ha dato bastonate molto crudeli sull'orgoglio dei tanti blogger, dicendo che in realtà poco più che paccottaglia informativa, bisognerebbe in realtà cercare delle fonti più certe quando si leggono delle notizie in rete. Daniele Pitteri, buongiorno. Questa mattina, visto che il pubblico preferisce ascoltare, facciamo parlare delle persone che hanno qualcosa a dire. Daniele Pitteri, saggista, giornalista, esperto in comunicazione. Daniele, noi ci sentimmo qualche anno fa, tu elaborasti una teoria che a me affascinò. Alla luce del tempo che è passato, cosa hai da dire sul senso dominante? Buongiorno. Beh, sul senso dominante io ne sono quasi, devo dire, quasi sempre più convinto. La teoria a cui ti riferisci tu è più che altro un'osservazione, però anche una sensazione. Una sensazione che deriva poi da alcune prove empiriche, in qualche maniera, che cercano conferma di quella sensazione. E cosa dicevi te? Spieghiamo. Dicevo semplicemente che probabilmente il senso della vista sia un po' esaurito, nel senso che sta finendo, anche se con lentezza, il proprio predominio sugli altri sensi, e che quindi molto probabilmente perché si è saturato in qualche maniera e quindi non ha più quella capacità di distinzione e di creare differenze, che sono poi il sale del sapere, sono il sale della società, sono il sale della... Quindi un'eclissi della visione come senso, della vista come senso dominante. Esattamente, e poiché naturalmente noi abbiamo bisogno di un nuovo senso guida, perché comunque la mettiamo, il nostro contatto col mondo è innanzitutto percettivo e sensoriale, penso che stia ritornando l'udito, che in realtà non è mai andata via, ma se noi guardiamo è andato via perché è il senso più antico in qualche modo, uno dei sensi più antichi, no? Ricordiamo che gli antichi sentivano voci, e questa necessità di sentire voci è una necessità che noi continuiamo ad avere, e fra parentesi la radio potrebbe in qualche maniera soddisfare questo bisogno ancestrale che quasi noi abbiamo. E io penso che tecnologicamente e culturalmente si stia progressivamente creando una cultura dell'udito ormai da alcune centinaia di anni, che sta finalmente giungendo a maturazione e che possa probabilmente avere la possibilità nei prossimi decenni di diventare il senso guida e di far diventare l'udito il senso guida. Questa quindi tu ci arrivi attraverso un altro tipo di approccio, analizzando macro fenomeni attraverso lo sviluppo dell'arte, della musica, delle letterature negli ultimi secoli, quindi è una sfumata lenta, non è che da un giorno all'altro cambia il senso dominante. Ma alla luce di quello che stiamo dicendo, non potrebbe essere che in realtà le integrazioni su cui stiamo ragionando, quella tra radio e rete, siano in fondo la via più facile e più intuitiva per la comunicazione nei tempi a venire? Ma guarda, secondo me potrebbe anche essere, però ci sono anche le contraddizioni, secondo me, in tutto questo, nel senso che, ad esempio, mi colpisce, nel senso che condivido ed è una conferma a quello che in parte pensavo e avevamo rilevato anche noi, mi colpisce quello che dice Rossetti. Uno dei problemi fondamentali, secondo me, che c'è nell'utilizzo della rete è oggi, è appunto il fatto fatto che la rete, per quanto possa essere apparentemente globale, in realtà è fortemente tribale, cioè si è legata a piccole comunità che si parlano fra di loro utilizzando questo mezzo di comunicazione, cosa che invece non è la radio, no? Perché la radio ha avuto sì una funzione così fortemente localizzata quando sono nate le radio libere, anche per le tribù si poteva ascoltare la musica nuova, si poteva parlare dei fatti della città, si poteva intervenire, quindi sostanzialmente era un mezzo comunitario, in qualche modo era diventato un mezzo comunitario e non più un mass media come l'abbiamo sempre ritenuto. Ora, questa integrazione in realtà è un'integrazione che avviene fra due strumenti che hanno delle vocazioni diverse, perché appunto la radio continua a mantenere questa sua vocazione diciamo così comunitaria, ma anche informativa e anche globale. Non solo, però secondo me ha anche una vocazione, diciamo così, legata all'interiorità delle persone, perché appunto occupa, riempie di voci, noi, riempie di voci la nostra interiorità, il nostro presente, il nostro mondo, e sono voci che non fanno rumore, ma sono voci che noi ascoltiamo, che possiamo ricordare. E invece la rete è la superficialità, è la disattenzione più totale. La scrittura, che è ancora dominante, come diceva Rossetti, in rete, o qualcuno che ci ha preceduto, adesso non ricordo, che è ancora il mezzo predominante in rete, in realtà in rete si è svuotato il significato, cioè le accentazioni ad esempio non hanno più significato, cade la sintassi, cade Daniele, la grammatica. Su questo però, cioè, su questa caduta alla grammatica rete devo toglierti la linea, Daniele, perché sono già oltre il tempo stabilito. 800 24 00 24, stiamo parlando radio e rete, stiamo parlando di similitudini, punti di incontro, punti di disaccordo, ma in realtà stiamo parlando di quello che facciamo ogni giorno da vari anni, di cercare di mettere assieme persone che ci ascoltano alla radio e ci seguono alla rete. Giampiero Lotito, devi aggiungere qualcosa a quello che sta dicendo Daniele Pitteri? Sì, che siamo nell'epoca dell'ubiquitous computing, cioè il computing che ci deve accompagnare e raggiungere dappertutto. Però l'unico medium che è veramente ubiquitario è rimasto la radio, perché io ho avuto un'esperienza proprio personale nelle ultime settimane con mio padre in ospedale. L'unica cosa che gli poteva tenere compagnia tutto il giorno senza disturbare gli altri e gli dava una ricchezza di temi e di cose da ascoltare, che gli faceva passare il tempo, era la radio. È l'unico, perché il video non lo può fare, non lo possono fare i social network, non lo possono fare tante altre cose che oggi vanno per la maggiore, per cui questo è un punto forte, fortissimo, a favore della radio anche per il futuro. Abbiamo al telefono adesso Marco Pancini. Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Tu sei l'unico ospite che ha un suo carattere di ufficialità questa mattina, mentre gli altri sono tutti amici, anche se sono illustri professori universitari. Sei responsabile per le relazioni istituzionali di Google in Italia. Ti ho chiamato perché oggi Google ha dato l'annuncio di un nuovo servizio che ha molte affinità con quello di cui stiamo dicendo questa mattina. Di cosa si tratta e come ci siete arrivati? Se c'è qualche punto in comune con le nostre riflessioni. Sì, intanto spero che Gianluca non ti scriva anche tu alla lista dei nemici, perché è già abbastanza ampia. No, a proposito dell'annuncio di oggi, che poi non è un vero e proprio annuncio, è praticamente la possibilità di provare un nuovo prodotto che si chiama Google Wave per una serie di persone, giornalisti, e soprattutto utenti interessati a svilupparlo. Questo nuovo prodotto Google Wave è molto simile a quello, insomma, all'idea che hai descritto fino adesso durante la tua trasmissione, cioè è un luogo nella cosiddetta cloud, cioè su online, in cui è possibile fare più cose. L'idea di partenza è quella di ripensare l'email al tempo del social network, quindi in un unico luogo sarà possibile comunicare per iscritto, parlarsi attraverso VoIP, scambiarsi immagini, scambiarsi video, in un qualcosa che non è più un'email, non è più un social network, ma è qualcosa di completamente diverso, si chiama Google Wave. Quindi avete intuito anche voi, Google, adesso non è che voglio farvi pubblicità è il mezzo che ha dato agli italiani, poi non so per il resto del mondo, poi sa di capire cosa sia la rete. Prima che arrivasse un motore di ricerca così frequentato, la gente brancolava, non sapeva bene esattamente a cosa servisse andare oltre la prima videata del browser. Avete alfabetizzato, avete insegnato a girare un po' alla gente. E oggi avete sentito anche voi la necessità però di aggiungere, integrare, rendere di facile fruibilità anche lo strumento della parola, di scambiarsi parole, non soltanto di scriversi e mandarsi immagini, scriversi testi. C'è dietro una riflessione che è vicina a quello di cui stiamo parlando noi? Sì, assolutamente. Il bisogno primario è comunicare. Comunicare soprattutto potendo sfruttare tutte le potenzialità che Internet offre, quindi non più una comunicazione soltanto scritta, non più una comunicazione soltanto attraverso immagini, ma una comunicazione che integri tutte le varie possibilità che oggi abbiamo grazie alla tecnica. Questo crea un qualcosa di totalmente diverso, un'esperienza totalmente diversa che ci dà tridimensionalmente la sensazione di avere un contatto diretto con la persona che è dall'altra parte dello schermo, esattamente come avevano pensato i fondatori di Internet nel momento in cui, pensando a un collegamento peer-to-peer, quindi da un nodo a un altro nodo, cercavano di abbattere la barriera temporale, la barriera spaziale tra due persone. Ecco, Nicola Frega, dall'Università della Calabria, un ingegnere e ricercatore sulle nuove tecnologie nelle aziende. Nicola, so che state lavorando, tu stesso sei posto il problema, a vari applicativi per cui anche l'aspetto vocale, l'aspetto di parlare, la radio e la rete possano trovare, vedi, Google ci sta arrivando anche lui, sta sperimentando qualcosa del genere, arrivino a un'integrazione reale, concreta, cioè chi ha usato visceralmente, geneticamente la radio come mezzo di espressione, di comunicazione e di attenzione verso il mondo, e si muove in rete, vuole qualcosa che assomigli comunque all'uso che faccia della radio. Buongiorno a tutti. No, niente, io l'unica cosa nota in più che volevo aggiungere velocemente era questa qui, appunto, la possibilità tecnologica ormai è abbastanza estesa e pervasiva, diciamo l'ubiquitous computer, la rete è pervasiva dappertutto, sta cambiando un po' l'approccio rispetto alla tecnologia, il problema appunto è l'applicazione. Le nuove tecnologie, come Google per esempio, ha anticipato molto, diciamo, favorevolmente, diciamo, con successo, è quello di integrare più tecnologie tra loro. Prima si diceva che l'intervento della telefonata nella radio, per esempio, era stata una cosa, diciamo, innovativa che ancora la televisione non riusciva a recepire, soprattutto all'inizio. Adesso addirittura dalla radio, dal telefono uno può fare radio, perché la convergenza sul mondo IP del VoIP con la radio, uno può crearsi una propria radio dal proprio telefonino con dei servizi messi in rete. Cioè, questa integrazione spinta consente di ripensare anche al modo come si fa radio, a smembrare anche tutte le componenti che la radio, diciamo, propone durante la giornata. Basti pensare al discorso dello svincolo dalla sincronicità dell'ascolto della radio attraverso il podcast o altre forme di comunicazione che si stanno diffondendo. Sì, a questo stesso programma è ascoltato da tantissime persone al di fuori dell'orario di trasmissione, si scaricano il podcast, molte se le tengono insieme durante la settimana le puntate, se le ascoltano come e quando vogliono. E questa è una rivoluzione che prenderà anche la televisione, nel senso che si deve ricominciare a ripensare. Il problema è l'accesso alla tecnologia. Il problema oggigiorno non è tanto che la tecnologia non c'è, ma l'accesso da parte della casalinga di Voghera, dell'utente qualsiasi. Dall'altro c'è anche un abbattimento dei costi. Per fare una radio locale su web, su IP, non costa nulla rispetto a quello che 10-12 anni fa, quando visitavo una radio locale che si era venduto con un mutuo migliaia e milioni, diciamo, per mettere l'antenna per il broadcasting, eccetera, eccetera, aveva investito, diciamo, ha perso tutti i soldi. È la cosa fondamentale, e qui devo toglierti la parola perché siamo proprio in conclusione della trasmissione, è che in fondo per la radio vale la metafora che facevo. Parlare a lungo di una tecnologia è come parlare di una scarpa di gran lusso che può avere un suo valore, ma molto dipende anche dal piede che lo mette dentro. E sia il valore dei contenuti in rete come il valore di ciò che si dice alla radio, si può parlare anche per ore, per giorni, avere grandi spazi, in fondo dipende molto dalle equazioni personali delle persone che mettono in gioco loro stessi all'interno di queste modalità. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.